voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. La logistica dell'automotive, una catena di montaggio on the road, di Andrea Ferro. È la storia di una famiglia e di un'impresa, una trama di vita e di lavoro che corre nel tempo e lungo le strade con le merci da trasportare su rotte sempre più allargate. Il marchio dell'azienda è Smet, il cognome della famiglia è De Rosa, la sede amministrativa è a Salerno, terra di origine del fondatore dell'azienda di autotrasporti e logistica. Oggi alla guida del gruppo c'è Domenico De Rosa, amministratore delegato in rappresentanza della terza generazione di imprenditori, che così focalizza le origini dell'impresa di famiglia. La nostra azienda, il gruppo Smet, nasce nel 1947 ad opera di mio nonno Domenico De Rosa. Si sviluppa con l'avvento di mio padre Luigi De Rosa e dal 2008 con la terza generazione ha un impulso europeo con il mio impegno diretto all'interno del gruppo. Sicuramente quella che è la peculiarità del nostro avviamento, come si può bene immaginare, il trasporto in quel tempo era dedicato ai prodotti della terra piuttosto che a beni di prima necessità per la ricostruzione, piuttosto che ricordo bene mio nonno operare già negli anni 50, negli anni 60 con il prodotto cisternato per gli oli, non solo quelli industriali ma anche i prodotti alimentari. Dal trasporto dei prodotti alimentari del territorio e dei beni di prima necessità, partendo dalla ricostruzione sociale ed economica di un paese, il gruppo Smet ha macinato chilometri e chilometri e via via ha imboccato strade sempre più lunghe e ambiziose nel solco di una sfida senza confini. Una sfida affrontata puntando sulla specializzazione, una carta risultata decisiva per orientare lo sviluppo dell'azienda. Sicuramente entrambe le commodity di cui parliamo, e che sono l'automotive e il glass, quindi il vetro piano, il vetro edilizia per intenderci, quello che noi vediamo tutti i giorni nelle nostre utilizzazioni come i building, i palazzi, le costruzioni, sicuramente c'è una necessità di una struttura iperefficiente. L'automotive richiede un just in time, richiede unire distanze molto profonde, molto lunghe, con una precisione incredibile. Colleghiamo abitualmente anche distanze da oltre 2000 chilometri con delle approssimazioni di non oltre i 30 minuti allo scarico, quindi deve essere davvero tutto sincronizzato e un'organizzazione complessa, tutta articolata e funzionante. Automotive e vetropiano, quindi il gruppo Smet focalizza sforzi, impegno e investimenti su questi due settori, plasmando la propria attività. Ma quali sono le caratteristiche, quali le peculiarità di questo genere di trasporti, in particolare dell'automotive? Domenico De Rosa, amministratore delegato del gruppo, traccia i segni distintivi dell'attività di famiglia, come sentiremo una gara continua, in questo caso anche contro il tempo, perché questo lavoro è una programmazione ferrea, una sincronia di viaggi calcolati al minuto e al chilometro, potremmo quasi dire una catena di montaggio on the road. Ad esempio, noi uniamo distanze come il Portogallo con l'Italia, piuttosto che la Romania con la Spagna, piuttosto che la Polonia con il Portogallo. È chiaro che l'automotive ha come elemento finale della logistica le carrozzerie nelle quali vengono assemblati i prodotti che noi vediamo sulle strade, quindi vogliono essere autoveicoli piuttosto che veicoli industriali. Noi congiungiamo tutto il flusso inbound da fornitore che produce un singolo componente fino alla carrozzeria che ne assembla tutta la gamma fino a dare il prodotto finito. E quindi è importante, per garantire che le precessioni di questi impianti produttivi, che sono tipicamente in Italia, sappiamo bene tutto l'area di FCA, quindi il poligono che esiste al sud Italia tra Melfi, Cassino, Pomigliano, Atessa, Avellino e Foggia, piuttosto che l'asse nord dove abbiamo Mirafiori, dove abbiamo Suzzara, dove abbiamo Brescia. in Spagna dove abbiamo il gruppo PSA, in Germania dove abbiamo il gruppo Volkswagen. Quindi questa è la nostra, diciamo, committenza primaria automotive. La cifra distintiva del gruppo SMET è investire sul futuro programmando nel dettaglio il presente, traguardare orizzonti imprenditoriali attraverso un'analisi attenta delle possibilità di sviluppo agganciandolo alla tecnologia e ad un mondo che cambia a ritmi vorticosi. Per un'azienda di trasporti specializzata nella logistica integrata, la scelta di veicoli sempre più innovativi e il rinnovo sistematico delle flotte rappresentano un passaggio decisivo, tanto più lo diventano in questo tempo nel quale l'efficienza di un'impresa e la qualità dei servizi che eroga passano anche dalla sua capacità di utilizzare mezzi e tecniche sempre più sostenibili. In questa direzione il gruppo SMET ha partecipato alla sperimentazione di tir lunghi 18 metri, quindi un metro e mezzo in più rispetto alle dimensioni standard. Sicuramente la evoluzione del veicolo industriale è assolutamente continua. Ne cambiano le tipologie, ne cambiano le dimensioni, ne cambiano le caratteristiche di sostenibilità. Noi siamo assolutamente un'azienda molto attenta alla innovazione e alla sostenibilità. Per alcuni aspetti siamo degli stimolatori naturali del processo legislativo. Siamo stati pionieri nel 2009 in Italia sul progetto 18 metri, abbiamo aderito alla prima fase del progetto, siamo stati coloro i quali hanno rilanciato la seconda fase nel 2012, abbiamo ritirato il maggiore numero di licenze in deroga per questo tipo di convoglio, che di fatto aumenta la capacità di carico dalle 33 pedane alle 37, consentendo evidentemente alla domanda crescente di trasporto non un proporzionale aumento di numero di camion, ma un'ottimizzazione del trasporto a tutti gli effetti. Il mercato dell'autotrasporto è dilaniato dai pesanti squilibri indotti dalla mancanza di regole che salvaguardino le pari opportunità tra le imprese dei vari paesi. Le aziende dell'est stanno conquistando quote di mercato sempre più ampie grazie a costi operativi decisamente ridotti rispetto a quelli sostenuti dalle imprese della cosiddetta vecchia Europa. In ballo condizioni di lavoro, fiscalità e salari profondamente diversi, spesso neppure paragonabili. A Bruxelles è in discussione il pacchetto stradale. Gli autotrasportatori italiani sollecitano azioni incisive per arginare fenomeni come il cabotaggio abusivo e il dumping sociale. La Commissione europea è spaccata, il quadro politico appare estremamente incerto. Dalla tolda di comando del gruppo SMET, Domenico De Rosa traccia i possibili scenari. Io mi auguro che una regolamentazione europea unica possa andare a livellare quello che è il differenziale di competitività. È indubbio che esiste una sperequazione tra paesi europei e questo non fa bene a nessuna impresa, né a quella italiana certamente che subisce, ma né tantomeno a l'impresa, dico per dire, ungherese, che evidentemente beneficia di un costo agevolato, ma di questo costo agevolato certamente non se ne avvale il dipendente, il quale evidentemente operando in Europa e subendo i costi europei certamente non porta a casa granché. Io spero e auspico che la responsabilità politica europea porti ad un livellamento ex lege. Come abbiamo sentito, il gruppo SMET ha preso forma nell'immediato dopoguerra a Salerno. È la testimonianza concreta di come un'impresa del mezzogiorno possa affermarsi su basi continentali, portando in giro per l'Europa valori tipici e caratteristiche vincenti. Noi diciamo sempre di avere fatto degli anticorpi importanti per affrontare i mercati difficili, però per il risultato del nostro gruppo devo attribuire una grande, diciamo, importanza a quello che mio padre Luigi ha fatto negli anni 90, e cioè un collocamento dell'azienda in Europa e in particolare su il baricentro lo ha posizionato in Nord Italia, quindi tra Torino, Venezia, Milano. Oggi noi abbiamo potuto sviluppare quello che era già un'ossatura impostata negli anni 90, quindi direi una bugia se dicessi che l'azienda è tipicamente del sud. Certamente il regime valoriale è un regime del territorio, è importante cogliere le opportunità.